La faccia a pagina 11 del Corriere, domenica scorsa, è quella di un signore in giacca e cravatta dall'aria distinta, ben diversa da quella dei soliti sciamannati con cui ho a che fare di solito, ma lo stesso un che di vagamente familiare. Mi sistemo gli occhiali sul naso, guardo un po' da vicino e sì, la foto, se non proprio quella di un vecchio amico, è comunque quella di uno che ho avuto in passato modo di frequentare. È una faccia degli anni di lotta continua. Paolo, che allora tutti chiamavamo più o meno affettuosamente Paolino, ed era, se non proprio uno dei leader massimi di quell'organizzazione, un dirigente almeno a Milano piuttosto importante. Come tanti compagni che venivano dalla facoltà di sociologia di Trento, era di formazione cattolica e bazzicava di preferenza nel ramo ideologico. Io lo avevo conosciuto, mi sembra, perché per un po' ce l'avamo occupati tutti e due di scuole studenti. Saranno 15 anni più o meno che non lo incontro né ho sue notizie dirette o indirette. Leggo l'articolo che accompagna la foto, è un'intervista in realtà, e capisco anche perché. Il Paolo in questione oggi è presidente del Movimento per la Vita della nostra città. Tiene due rubriche a Radio Maria, ha fondato da poco una società di consulenze e ha appena vinto una cattedra all'Università Europea di Roma, che nel testo viene definito semplicemente un ateneo pontificio, ma deve essere, se non sbaglio, collegata in qualche modo ai legionari di Cristo, che notoriamente tra tutti i movimenti cattolici è quello che comincia là dove finisce l'Opus Dei. Sapevo che Paolino aveva lasciato il Partito Comunista in cui era entrato dopo il 76 e per rientrare nell'area del cattolicesimo militante. Una volta ho anche sentito tessere qui a Radio Popolare le lodi di Carlo Borromeo, ma non pensavo che si fosse spinto così in là. Eppure avrei potuto immaginarmelo. All'epoca, quando faceva la scuola quadri ai ragazzotti di Sesto della periferia milanese, non si presentava come un moderato. Dubbi sulla linea lui non ne aveva. E si capiva che quella sicurezza era del tipo che porta lontano. Dante scrive che tra i lazzi sorbi si disconviene fruttare al dolce fico, ed era ovvio che una figura di tanta determinazione non poteva restare confinata a vita nel mondo un po' sfittico della sinistra. E non è colpa di nessuno, ovviamente, se l'unica alternativa alla sinistra sconfitta è la destra vincente. D'altronde questo è appunto l'argomento dell'intervista in cui il mio ex compagno racconta della sua evoluzione ideologica, che non significa, sia chiaro, né autocritica né pentimento. Tanto è vero che non ha mai rotto l'antica amicizia con Adriano Sofri e spera di rincontrarlo un giorno libero a Gerusalemme, il luogo del ritorno alle radici, il punto centrale del ripensamento. Cita quelli che considera i suoi modelli e compagni di percorso, Pasolini, che una volta gli chiese come mai a lotta continua parlavano sempre di rivoluzione e non discutevano mai d'aborto e di vita, Pierre Vector, alias Benilevi, il segretario di Sartre, tornato alla Torah come lui è tornato alla Bibbia, padre Dubois, domenicano tomista e fondatore della Facoltà di Filosofia dell'Università di Gerusalemme, e poi i neocon cristiani e il movimento americano pro-life in cui convivono verdi ed evangelici. Esprime diffidenza nei confronti dei pretesi rinnovatori del mondo cattolico, considera tra i suoi maestri Augusto Del Noce, ritiene che Buttiglione sia un filosofo eccellente e si compiace di essere stato al Cairo alla conferenza dell'ONU sullo sviluppo, dove ha affiancato Navarro Valls nella conferenza stampa per spiegare la dottrina della Chiesa alle inviate dei quotidiani arabi. E del successivo scontro tra le femministe occidentali e gli islamici ha avuto modo di notare che le giornaliste portavano minigonne mozzafiato, ma anche i mullah, nei loro tabarri neri, erano bellissimi. Niente da eccepire, naturalmente, niente da eccepire. Ognuno è libero di fare della propria vita quello che crede e in lotta continua si sono intrecciati destini anche più strani. Quello che non riesco a capire, semmai, è perché al Corriere abbiano ritenuto rilevante dal punto di vista giornalistico informativo pubblicare un'intervista del genere. Non c'è in quel tipo di evoluzione nulla di eccezionale. Nel nostro paese il cambio della casacca, quali ne siano le motivazioni, è sempre stata un'attività piuttosto diffusa. È una scelta che hanno fatto in tanti e spesso con delle ottime ragioni. Il Machiavelli, dopo il fallimento della Repubblica Fiorentina, si era convinto del valore salvifico dell'opzione del Principato e d'altronde lui teorizzava la subordinazione del mezzo ai fini. E Vincenzo Monti, che cantò con totale equanimità chiunque fosse al potere, il Papa, i Giacobini, Napoleone, gli austriaci, era semplicemente disinteressato alle minuzie della vita politica, tanto è vero che compose per tutti dei versi ugualmente splendidi. Ma lasciando perdere quegli esempi illustri, pur tenendo presente che un termine come rivoluzionario ha un valore affatto relativo, ammetterete anche voi che tra i tanti percorsi possibili nel campo minato dell'ideologia, quello che porta da una giovinezza in panni rivoluzionari a una maturità improntata a tutt'altre scelte, beh, non è tanto raro che ci si debbano fare degli articoli di giornale sopra. Probabilmente lo sa anche l'intervistato. Tanto è vero che, come per metterci un po' di pepe, ne spara qualcuna di grossa. Non tanto quando dichiara che a suo avviso dagli anni 70 si leva un lezzo morale, che è soltanto una conferma della terribile severità con cui i convertiti sogliono guardare alla chiesa di provenienza, e d'altronde è motivata in termini un po' scuri, tipo eravamo innovativi per la nostra modernità ma tradizionalisti per la teoria, o la nostra mente marxista era arretrata rispetto ai nostri corpi. È più eclatante, forse, quando si rammarica che in lotta continua non si discutesse affatto d'aborto, e dice di attendersi che le donne che ne fecero parte facciano oggi ammenda di quella lacuna. Le nostre femministe, dice, furono le più brave a distruggere e sono le più brave a ricostruire. Ma ora devono fare un altro passo, confrontarsi con la Madonna di Fatima, avere il coraggio di andare alle radici della donna occidentale e ritrovare Maria di Nazareth. È una dichiarazione abbastanza forte perché il Corriere ci faccia il titolo e anche uno strillo in prima pagina. Ma oltre al fatto che non oso pensare a che cosa le femministe di lotta continua avrebbero detto di un dirigente maschio che si fosse azzardato a spiegargli cosa fare o non fare, è anche un'affermazione abbastanza oscura a pensarci. Come si fa oggi a confrontarsi niente meno che con la Madonna? Sappiamo così poco di quella figura, oltre alla storia del suo concepimento miracoloso come lo racconta Luca, che non è evidentemente un esempio che ci si possa proporre volontariamente di seguire. Nei Vangeli su di lei troviamo soltanto degli squarci occasionali di notizie. Rimprovera al figlio che si è attardato a discutere con i dottori nel Tempio, ma non può comprendere la sua risposta. Partecipa alle nozze di Cana, è presente ai piedi della croce, e poi quasi tutto il resto, l'Immacolata Concezione, la Dormizione, l'Assunzione, la verginità in partum e postpartum e così via, ce l'hanno aggiunto i poster, con una serie di audaci estrapolazioni che hanno causato spesso risse e rotture nel corpo della cristianità, e risse e rotture che non si sono placate nemmeno oggi. Quella di Maria di Nazareth è una figura di madre, certo, ma proprio in quanto tale dovrebbe godere di una valenza universale. Collocarla semplicemente alle radici della donna occidentale suona un po' riduttivo, è quasi un'appropriazione. La donna occidentale è un'ipotesi antropologica tra le tante. La Madonna, dovrebbe rivolgersi a tutti, se non sbaglio. E Fatima, naturalmente, è soltanto uno dei tanti luoghi in cui, secondo modalità storicamente determinate, si celebra il suo culto, sottolineandone certi valori specifici, ma senza poterne o volerne esaurire tutte le potenzialità. La smetto subito, la pianto subito, visto che la teologia, come saprete, non è il mio forte. Ma personalmente, vi dirò, io non riesco a trovare nel racconto evangelico dell'Annunciazione nulla, ma proprio nulla, che si possa invocare a favore della necessità di legiferare in un senso o nell'altro in tema di maternità o procreazione. Mi sembra anzi un racconto che sottolinea la libertà di scelta da parte della donna. Posso sbagliare, naturalmente, ma è tipico di quella parte del cristianesimo che si riflette, che si rispecchia in organizzazioni quali il Movimento per la Vita, i Legionari di Cristo e simili, appropriarsi delle tradizioni della tradizione così com'è, ignorando nel complesso travaglio formativo, con l'inevitabile conseguenza di specificare il non detto, di chiudere ogni ipotesi di ricerca a favore di una dottrina data, presentata e vissuta sempre come l'unica possibile. È un modo di ragionare questo, che lezzo morale o non lezzo morale, negli ultimi 20 secoli ha prodotto ben più disastri di quanti se ne possano addebitare con tutta la possibile severità al movimento degli anni 70. Ma in fondo, anche i danni di quegli anni lì, facendo la debita proporzione, possono essere addebitati a una troppo disinvolta appropriazione di alcune certezze, oltre che alla volontà di imporre ogni costo anche ai non credenti. Da una certezza all'altra ci si muove sempre con una certa invidiabile disinvoltura. Il passaggio dal dogmatismo rivoluzionario a quello ecclesiastico è certamente più facile di un percorso che accetti la necessità del dubbio e del dibattito permanente. Io continuo a non capire che necessità ci fosse di pubblicare quell'intervista.